studia, c'è la correzione. Ah, okay. Quindi tu compari e vedi. Ho dimenticato l'orologio. Qualcuno ha un orologio, per favore? Grazie. Ok, quindi buonasera. Ah, come di solito cominciamo con la lettura del sutra, poi abbiamo la presa di rifugio. Aggiustiamo la nostra mente e andiamo avanti. Mi prostro ai tre gioielli, così una volta udì il vagabondo di Maraya Jagrissa la montagna più cade volta insieme a Bhaktisanga di Monaci un Bodhisattva. In quell'occasione il vagabondo era assorbito nel samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Uddeshwara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza, vedi che ci qua aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Uddeshwara, come deve estrarci ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò il Bodhisattva Mahasattva Arya Uddeshwara, rispose allora al venerabile figlio di Sarantati. Shariputra, ogni fine o filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrà applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente che i cinque aggregati come vuoti in intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni di discriminazione, fattori di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono i prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono, non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazioni di discriminazione, fattori di composizione né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né c'è tangibile, né fenomeni, né poi il considero dell'occhio fino a includere il considero della mente, il considero della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né intenzione dell'ignoranza, viene includere vecchiaia e morte, intenzione della vecchiaia della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è sofferenza suprema, né ottenimento, pure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, perché non c'è ottenimenti, Bodhisattva si basano e dimorano alla perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazione e senza paura, essendo completamente andati al di là di ogni ora, aggiungono il punto finale in nirvana, ed affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha, dimorando nei tre tempi, sono anche completamente risvegliati in insorpassabile e perfetta piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra che uguale a ciò che non uguale, il mantra che pacifica completamente le sofferenze, dal momento che non è falso, dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasam, gate, morisova. Shariputra, in questo modo, che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe essere nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan è rimesso da questa maglia, elogio il Bodhisattva Mahasattva Arya Uddeshwara dicendo: ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, per fini che tagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati e il Bodhisattva Mahasattva Arya Uddeshwara all'interno assemblea intorno a loro insieme al mondo dei dei uomini, dei semi dei Gandhari, risultando mai posa non alterò la parola del Bhagavan. Sanghe Jodon Sanghe Jono Jonju Bodo Dane Gyatsu Ji Dange Jin Sanghe Pe Sonang Nola Penje Sanghe Drobo Sanghe Jodon Sanghe Jono Jonju Bodo Dane Gyatsu Ji Dange Jin Sanghe Pe Sonang Nola Penje Sanghe Drobo Sangye Aja Dham Sangye Janam Na Jumba Du Dhani Gya Su Chi Dhani Jin Sangye Pe Sanam Ki Nola Penji Sangye Drumba Ju. poi si dovrebbe quindi aggiustare alla propria motivazione, alla propria mente. Quindi possiamo farlo in un modo breve o diciamo più sviluppato, dipende dal tempo che abbiamo, cioè il migliore modo di fare via prendere in considerazione i vari punti dei stadi del sentiero per arrivare alla motivazione la più elevata, no? La motivazione della mente di Bodhicitta, quindi prendendo in considerazione il fatto che siamo molto fortunati perché abbiamo la preziosa rinascita umana, quindi dotata di 18 libertà, 18 attributi, 8 libertà, 10 richieste, del suo grande potenziale, e prendo anche in considerazione la difficoltà di ottenere a questa condizione che abbiamo. Quindi non soltanto quindi abbiamo questa preziosa rinascita umana, ma abbiamo incontrato il Dharma, abbiamo incontrato i maestri autentici, certi di noi sono sotto anche la protezione dei maestri Vajra, quindi da questo punto di vista siamo molto fortunati, perché è molto difficile da incontrare queste condizioni che abbiamo. Poi dobbiamo pensare che siamo fortunati anche dal punto di vista che siamo ancora in vita oggi, cioè molti esseri si sono risvegliati, certi non si sono risvegliati stamattina, e altri invece che sono svegliati stamattina, ma non hanno avuto la capacità di finire la giornata. Okay? Così. Noi invece siamo ancora in vita, quindi abbiamo questa opportunità di cogliere l'essenza di questa esistenza umana. Okay? Quindi dobbiamo riflettere anche sul fatto che anche se siamo ancora in vita, non sappiamo anche per quanto tempo saremo ancora in vita, e a un istante questa esistenza può terminarsi, può finirsi. E quindi dovremo anche capire che alla fine di questa vita, quando si finisce questa vita, la mente continua, anche se la persona, come la conosciamo, con il suo carattere o la sua personalità, questo si dissolve in stati più sottili, perché la manifestazione di stati grossolani di coscienza si dissolve in stati più sottili, e questa continuità sottile di coscienza quindi va avanti, e di nuovo stati grossolani di coscienza verranno generati di nuovo, e quindi ci sarà di nuovo l'esperienza di un io, okay? Con dei fenomeni interni e esterni. Quindi queste esperienze che vanno al di là di questa vita sono direttamente determinate dalla nostra qualità di mente di azione verbale, fisica, e motivati da questa mente. Se prendiamo in considerazione quello che abbiamo compiuto anche nell'arco di questa vita, vediamo che è molto difficile di avere una mente in stati virtuosi, no? In stati di pensieri altruistiche, okay? Una mente libera dell'orgoglio, dell'attaccamento, dell'avversione. Vediamo che è molto difficile, quindi c'è probabilità di sperimentare difficoltà nella vita futura. Okay? Quindi dopo si dovrebbe prendere in considerazione chi effettivamente ci può proteggere di queste esperienze. Vediamo che il Buddha, il suo insegnamento, la comunità dei praticanti hanno effettivamente la capacità di farci evitare grossi problemi nella prossima esistenza. Okay? Però dovrebbe anche pensare che anche se si otteniamo un tipo di esistenza come quella umana, anche se fa parte dei livelli di esistenza superiore, è comunque pervasa di sofferenza. Vediamo da quando siamo nati la sofferenza, la difficoltà, l'insoddisfazione, il disincanto generale. Impregna la nostra esistenza, okay? Invece la felicità è molto rara, ci prendiamo anche una giornata, 24 ore, e vediamo quanti minuti siamo in grado di essere felici in una giornata, non la facciamo neanche un'ora di continuo essere felici, neanche 15 minuti di felicità continuo è molto difficile da mantenere. Okay? Questo è dovuto allo stato di mente che abbiamo. Abbiamo una mente turbolente, pervasa da afflizione e distorsione mentale. Okay? Quindi anche all'ottenimento di una rinascita così elevata come quella umana, anche limitato nel suo carattere di felicità. Okay? Quindi invece abbiamo la capacità, abbiamo questa mente, quindi la mente naturalmente libera, okay, dell'afflizione mentale. Le afflizioni mentali non penetrano nella natura della mente, la natura della mente è chiara, è immacolata, okay? Quindi queste afflizioni come l'attaccamento, l'avversione, eccetera, sono avventizie, dipendono, sorgono dovute a cose e condizioni. Quindi abbiamo questa capacità di attualizzare la purezza naturale della mente e attualizzare il suo potenziale naturale. Okay? Quindi questa purezza naturale viene attualizzata nello stato nirvana, che è la liberazione di che cosa? Di tutte queste afflizioni mentali, origine della sofferenza e quindi la manifestazione di questa origine che è il risultato, cioè la verità della sofferenza. Okay? Quindi possiamo tenere su questa base e anche in questa vita la liberazione completa della sofferenza. Quindi, però sì, prendiamo anche in considerazione, dovremmo cercare anche di allargare la propria mente e non essere solo soddisfatto, anche se qualcosa di già estremamente elevato, a portare la mente, già riuscire in un modo autentico a portare la mente a osservare la liberazione, già qualcosa di molto elevato, di molto difficile, perché ci vuole una grande comprensione. Però non dovremmo essere soddisfatti anche di questo stato, perché dobbiamo prendere in considerazione anche tutti gli altri esseri senzienti, okay? Che come noi circolano l'istanza ciclica da tempi senza inizio, come noi sperimentano la sofferenza continuamente, anche se all'interno del loro cuore desiderano solo, hanno quest'unico desiderio, non quello di essere felice. E quindi tutti questi esseri sono stati persone molto vicino a noi nelle vite passate, padre, madre, eccetera. Okay? Quindi si dovrebbe generare anche un'attitudine che osserva quindi tutti gli esseri senzienti e generare il desiderio quindi di ricambiare la gentilezza, esattamente come la madre di questa vita, no? Ci ha sempre tenuto nel suo cuore e continua anche sempre a tenersi nel suo cuore. Avevo come unico desiderio la nostra felicità. Quindi tutti gli altri esseri, quando hanno avuto questa relazione con noi, hanno avuto questa stessa attitudine. Quindi adesso che noi abbiamo incontrato l'insegnamento, abbiamo trovato un metodo per incrementare la felicità e diminuire la sofferenza, possiamo anche attualizzare uno stato dove siamo in grado quindi di beneficiare gli esseri in un modo molto, molto più definitivo, molto più lungimirante. Okay? Quindi si dovrebbe cercare di generare questo desiderio di attualizzare questo sentiero, no? Di purificare completamente la propria mente di tutte queste attitudini negative, distruttrice, causa di sofferenza, e sviluppare tutte le qualità per fare in modo di diventare una fonte di felicità per noi, ma anche per gli altri, che questo è lo stato di Buddha. Quindi cerchiamo di far sorgere questo desiderio, il desiderio di ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Che questo è il tipo di motivazione con quale dovrebbe ascoltare, riflettere e compiere qualsiasi pratica virtuosa in generale, ecco, nella giornata. Ok, altrimenti nel nostro testo noi abbiamo trattato insieme, siamo quindi nella, siamo entrati nelle contemplazioni degli esseri di motivazione intermedio, quindi degli esseri che ricercano l'emancipazione completa della sofferenza condizionata, okay? E abbiamo visto che il cuore di contemplazione degli esseri di questo tipo sono le quattro nobili verità e hanno come pratica principale i tre addestramenti superiori, in etica, in concentrazione e in saggezza. Okay? Quindi rispetto alle quattro nobili verità abbiamo trattato quasi in un modo abbastanza, sì, anche se breve, era comunque dettagliato. Okay? Abbiamo visto, quindi siamo per finire la verità della sofferenza e dobbiamo cominciare oggi a la verità dell'origine, da dove sorge tutta questa sofferenza. Quindi rispetto alla verità della sofferenza abbiamo visto i tre tipi di sofferenza, abbiamo visto gli otto tipi di sofferenza, abbiamo visto i sei tipi di sofferenza. E siamo arrivati qui. Ci sono delle domande rispetto a quello che abbiamo visto insieme finora? No, non so perché neanche vi faccio quella domanda. Tutto è chiaro? Ok, va bene, comunque. Quindi, e adesso dobbiamo vedere, abbiamo visto quindi la sofferenza, allora nel contesto degli esseri di motivazione iniziale abbiamo visto la sofferenza dei rami inferiori, nel contesto degli esseri di motivazione intermedio abbiamo visto fin d'ora la sofferenza che esiste a livello umano e dobbiamo fare una piccola e breve presentazione sulla sofferenza che esiste nei rami superiori, che questa è di tradizione, ve lo faccio velocemente così ho coperto i vari angoli anche per cioè per quelli che si interessano a queste cose. Ok, quindi per i reami superiori intendiamo, allora se vi ricordate anche nella cosmologia buddista abbiamo tre reami di esistenza, tre dimensioni, abbiamo la dimensione del reame del desiderio, il reame della forma e il reame del senza forma. Il reame desiderio, abbiamo vari tipi di esseri che esistono nel reame del desiderio. Abbiamo quelli dei reami inferiori, abbiamo gli esseri umani, abbiamo gli animali, tutto questo è il reame del desiderio. E abbiamo anche i tipi di esseri che sono superiori agli esseri umani all'interno del reame del desiderio. Okay? Si chiamano i deva o i dei del reame del desiderio. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipi, okay? 6 tipi, però non andiamo nel dettaglio. Sì. E quindi il reame del desiderio è abbastanza facile di capire perché si chiama reame del desiderio, perché principalmente, cioè l'occupazione principale della mente in questa dimensione di esistenza è rispetto a ottenere, diciamo, le 5 coscienze sensoriali hanno sete per i loro rispettivi oggetti, quindi ricerchiamo il contatto piacevole, uditivo, olfattivo, tattile, gustativo e tangibile. Okay? Comunque. Quindi la mente ha sete per quel tipo di contatto, altrimenti si chiama anche nella Abhidharma Kosha, viene spiegato che si chiama reame del desiderio perché principalmente abbiamo due preoccupazioni, il cibo e l'unione sessuale. Okay? Queste sono le due preoccupazioni, cibo è l'unione, okay? Ecco perché si chiama reame del desiderio, altrimenti dopo abbiamo il reame della forma, allora il reame della forma è suddiviso in 12 più 5, 17 livelli, okay? Questi 17 livelli sono divisi in 4 livelli di concentrazione, quindi il prendere, il manifestare, l'ottenere una rinascita in quel tipo di esistenza bisogna in questa vita, per esempio, con supporto del corpo del rame del desiderio, attualizzare a delle concentrazioni effettive, no? Quindi uno si mette a praticare la meditazione a alti livelli, okay? E riesci a generare una mente che non ha più le qualità del rame del desiderio, è separato dall'attaccamento che esiste all'interno del rame del desiderio, e invece manifesta le qualità della prima concentrazione, seconda concentrazione, terza concentrazione o quarta concentrazione. Okay? E in quel modo crea quello che viene chiamato un karma inamovibile. Alla fine di questa vita, questa persona non prende rinascita nel rame del desiderio, prende rinascita nel livello di concentrazione che ha attualizzato. Okay? Quindi in queste sfere, se prendiamo in considerazione i tre tipi di sofferenza, abbiamo la sofferenza della sofferenza, abbiamo visto la sofferenza del cambiamento, okay? Questi due tipi di sofferenza non esistono nel rame della forma, esiste solo la sofferenza onipervasiva di composizione, quindi non c'è sofferenza manifesta. Okay? La sensazione che c'è è solo una sensazione di grande equanimità o di estasi mentale dovuto all'esistenza della stabilizzazione meditativa. E poi sopra di questo abbiamo anche degli esseri che riescono a liberarsi anche dall'attaccamento alle sensazioni piacevoli che esistono nel rame della forma, e attualizzano gli assorbimenti nel RAM del senza forma, che è questo essere superiore. Quindi quando si tratta della riflettere sulla sofferenza, quindi del RAM superiore, dobbiamo prendere in considerazione per prima la sofferenza che esiste nei RAM superiori all'interno del RAM del desiderio. Okay? Quindi in generale i dei del RAM del desiderio, tutta la loro vita è pervasa da esperienze piacevoli dei sensi, che okay? Principalmente questo. Quindi le esperienze piacevoli dei sensi sono molto potenti, molto superiori a quello che possiamo concepire nella nostra sfera. E anche gli oggetti, che sono il supporto del loro godimento, sono molto, molto particolari. Se vediamo noi, no? Gli esseri umani possono generare attaccamento per esempio, i gioielli, no? I diamanti, quel tipo di cose, no? Sono oggetti di attaccamento, le persone ricercano quel tipo di ornamenti. Se prendiamo infatti quel tipo di ornamenti, di gioie che esistono in questa dimensione, cioè l'oggetto ha delle qualità così, così speciali che anche la scatola nel quale è stato piazzato quell'oggetto diventa dopo un oggetto di attaccamento, cioè è ricercato, per spiegare un po' le qualità che hanno questi oggetti. Quindi sono molto superiori. Gli oggetti che esistono sono molto superiori, anche l'apparenza degli esseri è estremamente piacevole. Ok, comunque, però il problema, comunque ci sono dei conflitti, ci sono anche i conflitti, ci sono anche, fino a un certo livello, ci sono anche delle guerre che esistono in queste varie dimensioni, perché ci sono delle ricchezze, no, da condividere. Però se abbiamo visto che sono 6 livelli, fino al terzo livello c'è il conflitto, gli ultimi 3 o gli ultimi 2, non mi ricordo bene, sono privi di conflitti. Però la sofferenza principale di questi esseri arriva al momento della morte, okay? Quindi vivono molto, molto, molto tempo. E più andiamo in alto, più la durata di vita è enorme. Per esempio, già dall'inizio, dai primi livelli, una mattinata sono 50 anni più o meno all'età di vita umana, una mattina, quindi la vita è molto lunga. E la sofferenza che sorge, quindi al momento della morte, dura più o meno 300 anni a livello umano. Quindi anche se questi, perché dobbiamo anche immaginare la dimensione di questi esseri, no? Non conoscono la malattia, non conoscono mai quei problemi che gli esseri umani conoscono, sono sempre in compagnia di persone piacevole, godono di ricchezza, di oggetti incredibili, però quando arrivano hanno un'apparenza estremamente attraente e quando arrivano al momento della morte, allora manifestano dei segni che riconoscono come essendo i segni della propria morte e sanno che dovranno quasi sempre, no, scendere, perché in queste sfere, visto che la mente è sempre, no, sempre piacevole, è sempre assorbita in godere di piaceri molto intensi, non c'è accumulazione di virtù che garantisce un'altra esperienza fortunata dopo. Si vive più o meno sulle riserve, quindi si utilizza tutto il karma proiettante virtuoso, no? E rimane solo dopo, praticamente, il karma, perché il karma non virtuoso non matura molto in queste sfere. Quindi dopo rimane il karma non virtuoso. E le persone vedono, quando arrivano al momento della morte, vedono che prenderanno rinascita, per esempio, come essere umano, con la malattia, l'invecchiamento, tutte queste cose, no? O che prenderanno rinascita come animale, eccetera. E quindi c'è un'agonia che dura 300 anni a livello umano. Perché questi segni non durano molto tempo, non soltanto, ma incominciano il loro corpo incomincia a sudare per la prima volta, cioè c'è un odore che viene emanato dal proprio corpo per la prima volta, e gli altri esseri non ricercano più la loro compagnia, nel senso che vedono che questi qua incominciano a manifestare i segni della morte, quindi si mantengono a distanza, quindi soffrono anche di questa solitudine. Okay? Sì. e tutto diventa sconfortevole. Loro vivono in certi posti molto, molto piacevole e tutto diventa sconfortevole dovuto all'avvicinare quell'evento. Quindi c'è una lunga agonia. Okay? Incominciano anche a chiudere gli occhi, no? Come si dice to blink, in inglese si dice blink, battere le ciglia, no? Questa è la prima volta queste cose sorgono. Anche siano questi vari segni. Un altro segno è che quando questi esseri, per esempio, si bagnano, fanno il bagno, no? L'acqua si collega a cinque posti particolari, no? Invece dopo non è più così. Quindi hanno questi vari segni che crea una grande agonia, grande ansietà nel loro continuo mentale. È molto superiore, dovuta all'intensità del piacere che hanno sperimentato, è molto superiore all'ansietà di un essere umano che deve lasciare i propri cari, i propri possedimenti al momento della morte, no? Perché vede anche che la sua prossima esperienza sarà quella automaticamente inferiore alla natura della sofferenza. Okay? Quindi altrimenti abbiamo visto che ci sono i conflitti, quindi i conflitti, quelli che hanno meriti inferiori ricercano di ottenere i possedimenti di quelli che hanno i meriti superiori, poi sono quelli con meriti superiori, hanno un splendore che eclissano quelli di meriti inferiori, quindi c'è una grande ansietà, grande gelosia rispetto a queste varie cose. Abbiamo visto che ci sono le conflitti, eccetera. Quindi anche la vita in queste sfere non è così bella. Okay? E poi abbiamo quelli del rame della forma e del senza forma. Abbiamo visto che non ci sono quel tipo di sofferenza, però c'è la sofferenza onnipervasiva di composizione, che è semplicemente il fatto di avere cinque aggregati fisico-psichici che sono proiettato dal karma e dalle afflizioni, come l'ignoranza, e quindi comunque tutte queste situazioni, anche se sono molto piacevoli, anche se dura, sono comunque impermanente e sono proiettate dal karma. Quindi a un certo punto bisogna scendere e bisogna dopo risalire con grande sforzo, eccetera. Quindi non c'è niente all'interno del samsara, che può essere considerato come veramente nell'entità, che può essere veramente attraente, o che offre un sollievo, permanente della sofferenza e delle difficoltà. Okay? Quindi si dovrebbe riflettere su tutte queste varie tipi di esistenza che abbiamo visto, particolarmente sui tre tipi di sofferenza che riguardano l'esistenza umana. E gli otto tipi di sofferenza, e in particolare la sofferenza della nascita, come l'abbiamo suddiviso in cinque sottocontemplazioni, e la sofferenza di aver cinque aggregati contaminati, queste sono molto importanti, per far sorgere, no? Ma qual è lo scopo di riflettere su queste cose, di far sorgere la mente di emersione definitiva, quindi una mente che non vuole più sperimentare quelle forme di esistenza, forme, e questi livelli di esperienza. Ok, e quindi prendiamo il testo, riprendiamo il nostro testo, siamo alla sezione sulle origini, il processo di impegnarsi nell'esistenza ciclica. Allora, dove siamo? Che pagina è? Avete trovato la pagina? Pagina 50. Tieni, questo io ce n'ho un altro qua dentro. Pagina? Pagina 50. Ok, allora. Quindi pagina 53, questa cosa la potete leggere tra di voi. Okay. Stadi di impegnarsi nell'origine di questa ciclica. Se qualcuno può leggere in italiano, per favore. Dopo aver compreso lo stato di sofferenza dell'esistenza ciclica che è stato appena spiegato, se non lo vuoi più, dovresti abbandonarne le cause. Per poter abbandonare le cause, le devi conoscere. Quindi, rispetto a questo, le principali sono le due, karma e afflizione. Le afflizioni sono, per esempio, come i semi in quanto, anche se vengono piantati in un terreno asciutto, arabile, se non trovano acqua, concime, calore, non daranno un risultato. Come dice il commentario della Commissione Valle, le azioni di coloro che hanno trasceso la brama per l'esistenza non possono proiettarne un'altra, poiché le condizioni cooperanti sono state estinte. Dopo aver accumulato il karma per rinascere come un animale, se viene ottenuta la pace prima di incontrare quel karma, essendo rimasto in corpo, non darà un risultato. In relazione a questo, quando le afflizioni vengono riconosciute, le afflizioni che esistono nel loro continuo, in modo latente, sono difficili da separare, come olio che ha permeato la carta. Similmente ad una persona che è affetta da una malattia cronica, che sembra momentaneamente in piena forma, ma genera dolore se mangia del cibo che favorisce la sua malattia. Quando vengono viste cose che sono attraenti, come i propri figli e figlie, cavalli e bestiame bovino, abbigliamento e gioielleria e così avanti, l'attaccamento inattivo è nutrito da un vero, per cui sorge in una maniera manifesta. Grazie, fermiamoci qui, grazie. Vediamo un po' quello che viene presentato qui. Quindi, riflettere sul processo delle distanze cicliche in termini dell'origine, e primo avremo il modo di produrre, vedremo insieme il modo di produrre le afflizioni, ok? Quindi cosa viene presentato? Qui viene presentato che l'origine della sofferenza che cos'è? È il karma e le afflizioni, cioè il karma sono le azioni, karma in sanscrito significa azione. Quindi abbiamo delle afflizioni, queste afflizioni quindi sono tutte queste distorsioni mentali, no? Questa attività mentale che nascono dall'ignoranza, l'ignoranza essendo anche un'afflizione, e queste attitudini mentali ci spingono a delle azioni, no? Quando un'azione viene compiuta all'interno, dove la mente si muove all'interno dell'ignoranza, dove c'è un fratendimento della realtà, automaticamente il karma viene accumulato, okay? Il karma viene accumulato. Quindi il karma in questo contesto non è soltanto la legge di causa effetto, ma il karma in questo contesto, perché nessuno passa al di là della legge di causa effetto, anche qualcuno che ha realizzato la realtà ultima è comunque diciamo, come si dice, sotto l'influenza, diciamo, le sue esperienze sono prodotte, il risultato della legge di causa effetto. Però karma in questo contesto si riferisce agli esseri oscurati, ok? Quindi è un'azione che ha accumulato senza aver realizzato il modo di esistere dei fenomeni, che okay? Questo è karma. E karma è ciò che ci lega all'esistenza ciclica, all'esistenza, no? Abbiamo visto, le afflizioni spingono all'azione, e l'azione sperimentato si manifesta in quattro modi. Vi ricordate, no? I quattro modi di manifestare l'azione? Abbiamo l'effetto, ogni volta che facciamo un'azione, e in una giornata ne compriamo migliaia, centinaia e migliaia di azioni di karma, e ciascuna di queste azioni si è completa, si è abbastanza forza, produce quattro tipi di risultato. Un risultato di piena maturazione, che sono cinque aggregati, okay? Quindi se l'azione è virtuosa, allora l'azione produce come risultato cinque aggregati in una sfera elevata. Se l'azione non virtuosa produce cinque aggregati o proietta cinque aggregati in una sfera di sofferenza. E dopo abbiamo ciò che viene a completare questi cinque aggregati, tutte le esperienze che vengono a completare questa rinascita, che sono l'effetto simile alla causa, per esempio l'uccidere, abbiamo la vita corta, con le malattie, con le cure che non funzionano, se abbiamo rubato, non troviamo mezzi di sostenimento, è difficile, eccetera, eccetera. Okay? Poi abbiamo la tendenza simile alla causa, è una predisposizione per uccidere, una predisposizione per mentire, una predisposizione per altre cose, ok? E abbiamo l'effetto ambientale, quindi per esempio l'odio produce un ambiente ostile, dove ci sono conflitti, dove tutto è arido, dove c'è violenza, eccetera, eccetera. Quindi un'azione produce tutto questo. Allora, qui vediamo che è un grosso problema, okay? Quindi il karma e l'afflizione sono entrambi necessari come cause per la creazione dell'esistenza ciclica, okay? Però le afflizioni sono principali, sono primordiali, perché è dovuta alla presenza delle afflizioni che il karma viene creato. Quindi nel testo dice esattamente come un seme, eccetera, eccetera, ok? Quindi qui forse il modo in cui è stato tradotto non è così chiaro, però non sono le afflizioni che sono il seme in questo contesto, no? L'analogia è questa, no? Esattamente se abbiamo un seme, e che questo seme viene messo in terra, però se non ci sono le condizioni per far maturare questo seme, germogliare come l'umidità, il calore, eccetera, allora quel seme non produce niente. Nello stesso modo, no? Quando un'azione è stata compiuta, c'è un potenziale che viene creato, ma se non c'è niente per nutrire questo potenziale, l'azione non produce mai il suo risultato. Qual è la condizione per far sorgere il risultato di un'azione? È l'afflizione. Dovuta alle afflizioni c'è il karma. Se non ci sono le afflizioni, anche se abbiamo compiuto del karma da tempi senza inizio, dal momento nel quale eliminiamo le afflizioni, il karma non matura più, è finito. Però anche se non abbiamo nessun karma, è completamente ipotetico, anche se abbiamo nessun karma, dal momento nel quale abbiamo un'afflizione, immediatamente incominciamo a creare il karma. Quindi vediamo che proprio è l'afflizione che è principale. Quindi se vogliamo farla finita con l'esistenza ciclica, dobbiamo eliminare le afflizioni, perché sono le afflizioni che producono il karma, che produce le rinascite, che producono le esperienze all'interno dell'esistenza ciclica, che produce l'ambiente. Tutto questo è prodotto delle azioni, e le azioni sono prodotte da che cosa? Dalla mente, la mente sotto l'influenza dell'afflizione mentale. Quindi identificazione dell'afflizione. Allora, Asanga nel compendium del compendium di conoscenza, Asanga era un pandita, si dice così in italiano, pandita dell'India antica, era il fratello di Vasubandhu, per quelli che sono interessati. Lui definisce un'afflizione in quel modo. L'afflizione è definita come un fenomeno che quando sorge nella sua natura è disturbante, è un disturbo nella sua natura, nel suo carattere è un disturbo. Quindi quando sorge, la mente automaticamente, simultaneamente viene disturbata, no? C'è un certe volte possiamo anche vedere, no? Quando la nostra mente è più o meno tranquilla, al momento che si manifesta un'afflizione, questa continuità di tranquillità viene automaticamente recisa e la mente entra in uno stato turbolente, o di ansietà, o di agitazione, è dovuta alla presenza dell'afflizione mentale. Quindi se vogliamo sperimentare la felicità, bisogna eliminare della mente tutte le afflizioni mentali, perché finché ci sono le afflizioni mentali, la mente è in uno stato precario, okay? Nel senso che anche se possiamo sperimentare 15 minuti di benessere, di tranquillità nella giornata, nei migliori dei casi, e questi arriva, cioè bisogna essere anche addestrati per sperimentare 15 minuti di felicità nella giornata, ok? Quando l'afflizione si manifesta, questa tranquillità automaticamente viene interrotta, no? Quindi la mente ha la capacità quindi di produrre in sé la propria sofferenza, non c'è bisogno di esperienze esterne, ci sono bisogno non necessariamente di condizioni esterne come i vicini che fanno il rumore alla sera o quel tipo di cose, no? La mente può anche concettualizzare anche pensare a ciò che è proprio spiacevole. Anche se l'oggetto non è presente, la mente si disturba da sola. Da sola. Ah, cioè, questa è la sua propria attività. Quindi è uno stato precario, perché finché abbiamo queste potenzialità, possibilità di generare dell'attaccamento, possibilità di generare dell'avversione, possibilità di generare della belligeranza, del risentimento, del dubbio, tutte queste cose, allora basta, basta quasi niente e la mente automaticamente si ritrova disturbate per giorni, ore, settimane, anni. Okay? Quindi le afflizioni, se prendiamo quelli che hanno studiato un po' il lore, se prendiamo le divisioni della mente, la mente può essere divisa in due: la mente principale e i fattori mentali. Okay? La mente principale sono le cinque coscienze sensoriali e la coscienza mentale. Okay? Quindi questi sono mente principale. Abbiamo quindi la coscienza uditiva, olfattiva, visiva, gustativa e tattile. La mente principale coglie l'entità dell'oggetto. L'entità dell'oggetto, per esempio la coscienza visiva, okay, è semplicemente consapevole o realizza la presenza di una forma, cioè di una sagoma e di un colore. Questi sono gli oggetti della coscienza visiva. La coscienza uditiva realizza l'esistenza di un suono. La coscienza olfattiva di un odore, eccetera. Okay? Queste menti principali sorgono nel loro seguito simultaneamente hanno quelle che vengono chiamate dei fattori mentali. I fattori mentali si impegnano nelle caratteristiche degli oggetti. Quindi la mente principale si impegna nell'entità dell'oggetto e i fattori mentali che sorgono simultaneamente con la mente, okay, hanno lo stesso oggetto di osservazione della mente principale, ma osservano gli attributi particolari di questo oggetto. Okay? Quindi abbiamo dei fattori mentali che sono onnipresente, come per esempio la sensazione, il contatto, l'impegno mentale, l'intenzione. Queste abbiamo cinque fattori mentali onnipresente. Ho dimenticato uno. La discriminazione. Okay? Questo, se ne manca una, non possiamo avere l'esperienza del fenomeno. Quindi questo sono abbiamo al minimo queste cinque che sono sempre presenti a ogni momento di coscienza. Quindi uno schiacco di dita abbiamo 65 istanti di coscienze diverse. A questi 65 istanti abbiamo la mente principale viene prodotta con i fattori mentali. Okay? Poi abbiamo anche dei fattori mentali determinanti, okay, che esistono quando l'oggetto viene determinato in un modo particolare, per esempio abbiamo la concentrazione, abbiamo la saggezza, eccetera. E poi abbiamo altri tipi di attività mentale, altri tipi di fattore mentale che determinano la qualità della mente, sia la mente virtuosa o sia la mente non virtuosa. Quindi queste menti sono neutre. Finché le coscienze sensoriali, questi fattori mentali determinanti e onnipresenze sono mutevole, nel senso sono né virtuosi né non virtuosi. Altri tipi di attività mentale agisce su l'entità virtuosa o non virtuosa della mente. Per esempio, se abbiamo fattori mentali come la fede, come il non attaccamento, come la non avversione, come lo sforzo entusiastico, eccetera, allora automaticamente la mente diventa virtuosa. La mente diventa virtuosa e le azioni che sono spinti da questa mente diventano azioni virtuose e che hanno un risultato di felicità nel futuro. Invece sì, nel seguito di queste menti abbiamo attaccamento, abbiamo dell'avversione, abbiamo dell'orgoglio, allora automaticamente tutta l'entità della mente diventa contaminata, cioè diventa non virtuoso, e le azioni compiute fisiche e verbali, le azioni fisiche e verbali compiute e motivate da questa mente diventano non virtuose e sono cause di sofferenza futura. Quindi vediamo che il proprio proteggere l'entità della mente è primordiale. È questo che determina se l'azione, sì o no, diventerà una fonte di felicità o di sofferenza. Quindi è molto importante riconoscere quali sono gli oggetti, perché quando si parla della, quali sono gli oggetti di abbandono, okay, e quelli che sono da adottare, da coltivare. Perché in termini della pratica del Dharma, che cos'è la pratica del Dharma, no? Non è meditare o studiare, non è sinceramente questo. Questi sono dei mezzi per aiutare la pratica. La pratica del Dharma è eliminare tutto ciò che deve essere eliminato e coltivare tutto ciò che deve essere adottato, cioè adottare ciò che deve essere adottato in termini di fattore mentale. In termini di fattore mentale. Quindi dobbiamo conoscere la lista, okay, dei fattori mentali non virtuosi, conoscere la lista dei fattori mentali virtuosi, sviluppare dell'introspezione, quindi diventare un po' più consapevole della propria attività mentale, essere in grado di istante dopo istante rinsintonizzare la mente sulla frequenza giusta. Questa è la pratica del Dharma, okay? In quel modo, perché allora vi potete dire, ma sì, ma cosa ci guadagno? Allora, abbiamo visto, no? Le azioni, eccetera, vite future, azioni virtuose, quindi esperienze di felicità virtuose. Ma sì, guardiamo anche l'entità di una mente o l'esperienza che esiste in una mente quando ci sono queste varie attività mentali. Vediamo che la mente, quando è concomitante con i fattori mentali virtuosi, la mente è felice. Okay? E invece quando ci sono, in generale, c'è un'eccezione, in generale quando ci sono i fattori mentali non virtuosi, la mente è infelice, è sofferente. Quindi anche se non ci interessiamo, abbiamo difficoltà a accettare il concetto delle vite passate e future, anche se vogliamo essere felici, non c'è altro metodo che questo. Per esempio, quando invece all'interno della mente c'è l'amore, o c'è la compassione, o c'è l'equanimità, tutte queste sono fattori mentali, o c'è la fede, tutte queste cose, la mente automaticamente è in uno stato di benessere. Invece quando c'è l'avversione, quando c'è dell'orgoglio, quando c'è del dubbio, automaticamente la mente è in uno stato di sofferenza. Cosa significa? Significa che la sensazione che coesiste con l'afflizione è una sensazione spiacevole, e invece la sensazione che coesiste con i fattori mentali virtuosi è una sensazione piacevole. Quindi anche se vogliamo semplicemente essere felici nella vita di tutti i giorni, dobbiamo fare attento alla propria attività mentale. Chi fa attento alla sua attività mentale è una persona felice. È una persona felice che non avrà problemi anche di sofferenza anche nella vita futura. Quindi quando si parla delle afflizioni, si parla di sei afflizioni radice e di 20 afflizioni secondarie. Le sei afflizioni radice si chiamano così perché i 20 secondari derivano di queste sei radici. Le sei afflizioni radice, che sono il proprio nemico, non abbiamo un peggior nemico di queste sei afflizioni radice. Ma che se prendiamo anche un nemico, il peggior nemico che possiamo immaginare in una vita, è qualcuno che ci uccide. Sarebbe il peggior nemico, no? Qualcuno che ci uccide. Ci uccide, però di più di questo non ci può far niente al di là di questo. Invece le afflizioni non soltanto ci uccidono, perché comunque è dovuto alle afflizioni che prendiamo rinascita e quindi dobbiamo morire, ma hanno anche la capacità di farci sperimentare sofferenza nelle vite future. È dovuta alle afflizioni che ci portano in stati di sofferenza nelle vite future e che ci fanno soffrire anche in questa vita, nel senso l'ansietà, il nervosismo, lo stress, tutte queste cose, da dove derivano? Derivano dalle afflizioni. Automaticamente derivano dall'afflizione, vedremo. Okay, quindi quali sono queste afflizioni radice? Abbiamo la principale, l'ignoranza. Okay, l'ignoranza. Dopo abbiamo l'attaccamento, l'avversione, l'orgoglio, il dubbio e le visioni errate, le visioni afflitte. Abbiamo contato 6? Ok, sì, sì. Ok, le visioni afflitte si dividono in 5. Ok, si dividono in 5. Abbiamo, queste sono cose molto importanti. Comunque avete la lista qui nel testo, dopo le vedremo uno per uno perché bisogna identificarle. Ok? Le avete nel testo, si guardate a pagina 54, si incominciano, avete l'attaccamento a pagina 53, l'odio, l'orgoglio, l'ignoranza, il dubbio, e dopo abbiamo le 5 divisioni delle visioni afflitte. Abbiamo la saggezza afflitta, cioè la visione del transitorio, abbiamo la visione che si afferra a un estremo, ok? Abbiamo la visione che sostiene una visione scorretta come suprema, la visione che sostiene la moralità, la condotta scorretta come suprema, e le visioni errate. Queste sono le 5 suddivisioni delle visioni afflitte. Quindi si può parlare di 6 afflizioni radice, o si può parlare di 10 afflizioni radice, se andiamo a suddividere queste 5 visioni, o si può parlare delle 5 visioni e delle 5 non visioni. Okay? Le 5 non visioni sono l'ignoranza, l'attaccamento, l'odio o l'avversione, l'orgoglio e il dubbio. Il dubbio in questo contesto è un dubbio afflitto, okay? Non è semplicemente il dubbio, lo vedremo. Okay? Quindi andremo, e poi abbiamo, da queste 6 derivano 20 secondari, ok? I 20 secondari qui non avete la lista, non ci sono, quindi potete trovare la lista in altri testi, ok? Velocemente, ve le do, abbiamo la belligeranza, il risentimento, nascondere, come è stato tradotto? Abbiamo, come si chiama, l'occultamento e il nascondere i propri errori, no? Abbiamo il dispetto, ok, o il risentimento, abbiamo già detto, no, un altro dispetto, l'invidia, l'avarizia, l'inganno, la dissimulazione, l'alterigia, la malvagità, il non vergogna, il non imbarazzo, la letargia, l'eccitazione, non fede, pigrizia, non conscienziosità, dimenticanza, non introspezione e distrazione. Okay? Queste sono le 20 afflizioni secondarie. Allora, se abbiamo l'ignoranza, le abbiamo tutte. Okay? Non è che io questa ce l'ho, questa non ce l'ho, no, è un pacchetto. Okay? Se abbiamo l'ignoranza, l'ignoranza che è un fraintendimento della realtà, quindi l'ignoranza che concepisce un io intrinsecamente esistente, abbiamo tutto il resto. Okay? Allora, su quello che dobbiamo fare per incominciare è focalizzarsi sulle 6 afflizioni radice. Okay? Le 6 afflizioni radice è cercare di studiare la loro entità, quindi vedremo insieme la loro entità per quelle 6, e vedere qual è che è predominante nel nostro continuo mentale. Ciascuno di noi ha dovuto al suo passato, alla sua storia, al karma, eccetera, abbiamo tutte delle predisposizioni e quindi abbiamo un'afflizione che è più ricorrente, okay, delle altre. Predominante, ok? O non soltanto è predominante, ma quando sorge, la forza con la quale sorge è considerabile, è disproporzionale rispetto agli altri. Okay? Quindi la prima cosa è per noi è di identificare questa, l'afflizione con la quale abbiamo, che è predominante, e incominciare a lavorare su questa. Okay? Poi dopo si lavora sugli altri. Ma vedremo anche insieme gli antidoti. Abbiamo degli antidoti temporali, okay, che sono dei cerotti, perché l'antidoto finale è realizzare la vacuità. Okay? Quindi ciascuno di queste afflizioni ha un antidoto cerotto temporale che permette di ridurre l'afflizione fino a renderla quasi non manifesta, è possibile, però non viene eliminata, ok? Semplicemente resa non manifesta dall'applicazione di un antidoto. Per eliminarla bisogna realizzare la vacuità, quindi meditare sulla vacuità è un antidoto universale a tutte le afflizioni, ok? Elimina l'afflizione completamente alla radice, non soltanto la rende non manifesta, ma l'elimina completamente. Gli altri invece sono temporali. Allora, vediamo un po'. Sì, vai. L'afflizione che fa turbinare la mente per il desiderio di vederli, come vederli, toccarli e così via, è l'attaccamento. Vai. Quando vediamo un nemico, qualcuno che non ci è caro, l'afflizione che genera il completo accendersi come fuoco attizzato dal vento, per l'intenso odio che pieno di forte malevolenza pensa lo danneggerò con qualunque mezzo, è l'odio. L'afflizione che, per la forza dell'apprendere un sé, all'aspetto di presuntuosità che ritiene se stesso come superiore, pensando tale e tal'altra persona non sono paragonabili neppure a un mio solo coro, per il fatto di avere una buona famiglia, ricchezza, le qualità di vita e la vita del corpo, è l'orgoglio. Proprio come, anche se dentro una casa senza finestre ci sono molte cose di colori e forme differenti, per il potere dell'oscurità, non si sa se sono bianche o nere, eccellenti o difettose, similmente la pressione che oscura, ovvero rende non chiaro l'intero modo di sussistere delle varietà e dei modi, come le azioni e i loro risultati, le quattro verità e così via, è l'ignoranza. L'afflizione che ostacola la generazione dell'attaccamento rispetto dell'accertamento rispetto agli oggetti tramite il pensare. Le spiegazioni nelle scritture riguardanti i tre gioielli e così via sono vere o no? È il dubbio. Grazie, fermiamoci qui per adesso. Quindi questa è una presentazione molto breve dell'entità principale dell'oggetto. Ok? No, allora qui per esempio ho trovato in meditazione sulla vacuità, no? Tradotto, c'è una buona presentazione di tutte queste, cioè per qualcuno comunque che ha il desiderio di impegnarsi nello studio abbastanza serio, questo libro c'è tutto, c'è molte cose dentro. Ok, allora prendiamo, la prima è l'attaccamento, no? Allora, qui passeremo un po' di tempo a vedere queste afflizioni uno per uno, può sembrare anche abbastanza fastidioso. Così, però è primordiale l'importanza di questo lavoro è primordiale, perché se non riusciamo a identificare le afflizioni non c'è modo di poter eliminarle, non sappiamo neanche che cosa dobbiamo eliminare nella mente, che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo praticare. Le persone pensano che praticare, sedersi e recitare dei mantra, okay? O leggere dei sutra. Ma questo, anche se sono pratiche virtuose, non fanno niente, ok? Non fanno niente a livello del eliminare la radice della sofferenza. Ovviamente faranno qualcosa tra non so quanti migliaia di eoni, quando il karma avrà maturato, ok? E queste virtù che abbiamo seminato, recitando dei mantra, eccetera, porteranno il loro beneficio e faranno generare una certa saggezza. Però la pratica è questa. Okay? Questa è la pratica del Dharma, identificare gli oggetti di abbandono, okay? E capire come vanno abbandonati e applicare il metodo per abbandonarle. Quindi che cosa dobbiamo abbandonare? Le afflizioni. Perché? Perché sono la fonte della sofferenza presente, futura e passata. Il passata non ci importa molto, però quella presente e futura sicuramente ci importa. Quindi per prima cosa, anche prima di andare lì a riconoscere l'afflizione, dobbiamo vedere che la propria mente è in uno stato sofferente. Va bene che abbiamo visto, no, tutte queste circostanze di incontro, di non incontro, tutte queste occasioni che creano della sofferenza nel continuum mentale, del continuum fisico e mentale. No, abbiamo la malattia, l'invecchiamento che creano sofferenza fisica e mentale, però ancora più importante di questo è vedere proprio che la mente nello stato attuale è la vera fonte di sofferenza, che tutta la sofferenza deriva dal nostro stato attuale mentale, no? Il nostro modo di concettualizzare, il nostro modo di pensare è non controllato. Questo è la sofferenza. Okay? Finché non avremo il controllo su questa mente, finché continueremo a progredire, tra virgolette, all'interno dell'ignoranza, non avremo nessun controllo sull'attività mentale, la qualità di questa attività mentale, okay? E sulle esperienze, sulle sensazioni che derivano anche di questa attività mentale e sulle sensazioni dovute all'incontro con fenomeni esterni. Cioè noi sperimentiamo, no, il karma tramite la sensazione. Le sensazioni sono di tre tipi, piacevole, spiacevole e neutro. E non abbiamo nessuna scelta di sperimentare il piacevole o il spiacevole. Questo matura indipendentemente dalla nostra volontà. Però se prendiamo il controllo piano piano della propria continuità mentale, almeno possiamo concettualizzare in un modo che non crea sofferenza in più dell'incontro già con esperienza difficile, ok? E possiamo anche, quindi a un primo livello, non crea sofferenza supplementare, ok? E il secondo, possiamo anche percepire qualcosa di spiacevole normalmente come un'opportunità, ok? Un'opportunità, e quindi anche dimorare con uno stato mentale felice, positivo anche rispetto a queste a questi problematiche, okay? Però non sto dicendo che lo scopo del buddismo è di essere confortevole nelle difficoltà, okay? Non sto dicendo questo, sto dicendo che questo comunque è un passo necessario, okay? Passo necessario. Comunque non so se il messaggio è passato chiaramente, ho difficoltà ad esprimermi stasera, però in essenza è questo. Quindi la prima cosa è cercare un po' di ascoltare, di ascoltare la propria attività mentale. Vedrete che l'attività mentale è qualcosa che c'è sempre questa chiacchiera continua, permanente, dietro, blah, blah, blah, blah, blah, blah, e in generale è negativa. Cioè sta la criticando dietro, c'è questo che non mi piace, c'è questo che guarda quello, che cosa fa quello, cosa fa quell'altro. Questa è l'attività mentale che abbiamo tutti. Dobbiamo entrare in contatto con questo e vedere che proprio questo è una rovina, perché finché avremo quel tipo di attività mentale negativa, okay, è impossibile sperimentare il benessere e la felicità. È impossibile. È possibile. Quindi prima entrare in contatto con questo, vedere che questo, anche quando stiamo parlando con qualcuno, no? Anche quando stiamo leggendo, dietro c'è. C'è. A quelli che meditano sanno assolutamente di che cosa sto parlando. Quello che ci hanno provato a meditare lo sanno benissimo di che cosa sto parlando. Questo non cessa mai. Non è che c'è soltanto quando siamo a meditare. No, no. Lo vediamo quando stiamo meditando, perché c'è un lavoro di introspezione che occorre a quel momento, quindi entriamo in contatto con questa cosa, però c'è sempre. E allora il problema non sarebbe troppo un problema se la mente era sempre concettualizzando in un modo altruistico, positivo, virtuoso, cioè non sarebbe un problema, perché automaticamente la persona si sentirebbe bene quando la concettualità è positiva, la sensazione è piacevole e la persona si sente bene. Ma visto che tutto questo lavoro concettuale, tutta questa concettualità non controllata, okay, è in generale negativa, critica, è nella natura dell'insoddisfazione, nella natura del malessere e del risultato dello stress, dei pensieri pesanti, eccetera, tristezza, tutte queste cose, allora automaticamente la persona è giù di morale, non si sente bene, e il risultato è anche c'è un impatto sul fisico, perché anche se il corpo e la mente sono diversi, sono legati in un modo molto, molto ravvicinato, no? Quindi se la mente è positiva, il corpo si sente bene, se la mente è in uno stato depresso, negativo, infelice, automaticamente il corpo sviluppa dei problemi, cioè c'è un eco sul corpo. Quindi entrate in contatto, è importante entrare in contatto con questo, vedere l'ampiezza del disastro. Si dice così, l'ampiezza del disastro, perché è un disastro. La nostra attività mentale è un disastro. E se non facciamo niente, la cosa va sempre peggiorando. La cosa va sempre peggiorando, perché naturalmente la mente scende verso il basso. E visto che siamo sempre in contatto con gli oggetti dei sensi, e oggetti dei sensi sono di due tipi, piacevole o spiacevole. Le situazioni sono piacevole e spiacevole. Automaticamente la mente continua, attaccamento, avversione, attaccamento, avversione, attaccamento, avversione. Quindi questo è un processo che è senza fine e che è una spirala verso il basso. Quindi vedete voi, vedete voi. Voi cercate di fermarvi, ok? Mettervi seduto in modo confortevole e solo mettervi, porre l'attenzione sul respiro. Anche questo è molto semplice così. Fate questo un po' per un po' di giorni. Questo già entrate subito in contatto con la radice del problema. Subito. E vedrete che l'attività mentale, anche se allora, c'è questa concettualizzazione permanente è di due tipi, o va verso oggetti di attaccamento o va verso oggetti di avversione, nient'altro. Quindi l'attaccamento, che cos'è l'attaccamento? Allora, nel testo che ho qui sugli occhi, l'attaccamento legge, no? Percepisce un fenomeno contaminato, ok? Esterno o interno. Allora, un fenomeno contaminato, cosa significa contaminato? Allora abbiamo, secondo le scuole, abbiamo varie possibilità di spiegare contaminato. Possiamo dire che è contaminato perché è prodotto dal karma, ok? Tutto prodotto dal karma in certo modo. È contaminato anche perché ha un'apparenza, c'è cioè un'apparenza falsa, quindi però principalmente quando si riferisce a contaminato è perché è prodotto dal karma e dall'ignoranza, ma anche perché osservandolo le afflizioni aumentano, quindi è contaminato da questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista tutto è contaminato, perché tutto può incrementare le afflizioni o per osservazione o per concomitanza. Quindi questa è la presentazione vaibhashika di ciò che è contaminato. Quindi esterno, allora per esempio l'orologio, è un fenomeno contaminato, perché quando lo osservo posso generare dell'attaccamento rispetto all'orologio. Quindi da questo punto di vista è contaminato, perché ha questo potenziale. Quindi questo è esterno. E interno cosa sarebbe? Un fenomeno contaminato interno potrebbe essere, per esempio, la sensazione di felicità che esiste, no? Questa sensazione di felicità o di piacere è un fenomeno contaminato, perché comunque è prodotto dal karma, ma è contaminato anche dal punto di vista che quando l'osservo mi attacco a questa sensazione di felicità. Questa sensazione di felicità genera attaccamento susseguente. Okay? Quindi l'attaccamento percepisce un fenomeno contaminato, esterno o interno, come piacevole per propria entità. Per propria entità cosa significa per propria entità? Significa che il fenomeno viene percepito come essendo nella natura del piacere. Nella natura del piacere. Ok? Che dal lato del fenomeno, che il fenomeno ritiene questa natura di essere piacevole. Il fenomeno ritiene questa natura di essere piacevole, che non è la mia mente che decide che questo è piacevole. Questo sarebbe imputato, non ha una natura imputata, esiste del proprio carattere come piacevole. Questo è il lavoro dell'ignoranza, come vedremo. E quindi lo ricerca. È una reazione logica. Il fenomeno ci appare come piacevole del suo proprio lato, e quindi lo ricerchiamo. Ha la funzione di generare sofferenza. Automaticamente l'attaccamento ha come funzione di generare della sofferenza. Per due cose. Il primo perché quando non l'abbiamo, soffriamo. Prendete in considerazione ricordatevi, non so, quando eravate adolescente, quando avete dei sentimenti non condivisi, ok? Allora, c'è la ricerca, no? Dell'oggetto di attaccamento. Si parla di oggetto di attaccamento, si parla anche di persone. Non è che le persone sono gli oggetti, ma sono oggetti della coscienza. Quindi anche persone sono oggetti da questo punto di vista. Quando l'attaccamento sorge, ok, automaticamente ricerca il contatto con il fenomeno, con l'oggetto, e non vuole essere separato. Quindi ricerca, ma non vuole neanche essere separato. Quando automaticamente quindi soffriamo quando non possiamo avere e soffriamo quindi quando siamo anche separati. Questo lo sapete. È la più grande sofferenza, se prendiamo tutte le afflizioni, la più grande sofferenza sorge dall'attaccamento, non sorge dall'avversione. Quello che fa soffrire di più è l'attaccamento. Infatti viene annunciato per primo. L'attaccamento aderisce al suo oggetto di osservazione come una macchia d'olio su un vestito, perciò è difficile da separarsene. L'attaccamento è classificato in tre tipi: attaccamento del rame del desiderio, rame della forma, rame della stessa forma. Questo non ci riguarda. La ragione per cui si afferma che l'attaccamento ha la funzione di produrre la sofferenza è che la radice di ogni sofferenza è la nascita, ok? E la causa principale della nascita anisociclica è l'attaccamento. Questo lo vedremo più avanti. Questo ha a da vedere con il processo della morte, no? Al momento di morire la persona ha come la sensazione di fuoriuscire dall'esistenza, quindi a questo momento c'è l'afferrarsi, c'è quello che viene chiamato la brama e l'afferrarsi, un'intensificazione della brama che ricerca i cinque aggregati e allora questo ci propulsa nell'altra esistenza, fa maturare il karma, ci propulsa nell'altra esistenza. Quindi, però, vediamo comunque che l'attaccamento è onnipresente nella nostra vita. Per noi esseri ordinari all'interno del rame del desiderio, l'attaccamento è onnipresente. Non lo riconosciamo neanche, okay? Ma ogni volta che c'è, per noi è così, è una realtà. Ogni volta che c'è un'esperienza piacevole, sia oddittiva, olfattiva, tattile, gustativa, automaticamente c'è l'attaccamento. È automatico, è onnipresente. Se c'è qualcosa di piacevole, c'è l'attaccamento. Quindi è molto difficile separarsi dall'attaccamento per due motivi. Uno è dovuto al suo modo di operare, okay? Perché ci ravvicina così, così tanto all'oggetto che l'oggetto è come forse penetrato, no, dall'attaccamento. Cioè l'attaccamento ci lega all'oggetto, lega la mente all'oggetto. Semplicemente, cioè, pensiamo sempre all'oggetto di attaccamento, no? Persone che hanno forte attaccamento per un'altra persona, per altro oggetto, eccetera, è quasi onnipresente, no? E la separazione è molto difficile. Quindi, l'altra cosa è che l'attaccamento è difficile da eliminare perché questa è l'eccezione che dicevo prima, no? Quando si manifesta può esserci anche una sensazione piacevole, può esserci anche una sensazione piacevole. Infatti l'attaccamento in generale si mostra come un amico, pensiamo, no? Ma di solito quando le persone intendono che devono abbandonare l'attaccamento, cioè, ma cosa facciamo allora nella vita, no? Non è che dobbiamo abbandonare la sensazione piacevole, non è che dobbiamo abbandonare gli oggetti, eccetera. Dobbiamo abbandonare questo modo di relazionarsi con gli oggetti, che è abbastanza, cioè, questa ricerca e non voler essere separato dall'attaccamento. L'attaccamento è un po' come, non so, cioè, c'è due modi di tenere un oggetto, no? Cioè, potete tenere l'oggetto semplicemente così, o potete tenerlo così, ok? Alla fine l'utilizzo dell'oggetto è lo stesso, no? E anche il possesso dell'oggetto è lo stesso, però l'attaccamento è un po' così. Quindi automaticamente ci crea sofferenza perché la non separazione non è qualcosa di realistico. Tutto ciò che viene, lo dicono, no? Tutto ciò che è prodotto e distrutto ciò che sono le, tutto ciò che è aggregato e disperso, accumulato e disperso, tutto ciò che è dovuto dove c'è un incontro c'è anche una separazione. E nella natura delle cose non possiamo fare niente contro questo processo. Okay? Quindi l'attaccamento invece, che è questa mente che per niente al mondo vuole essere separato, è una mente che va all'incontro della sofferenza, va già all'incontro della sofferenza per il suo modo di operare, il suo modo di concepire. Quindi dobbiamo riflettere molto sull'attaccamento e vedere il come, in che modo ci crea sofferenza e vedere che effettivamente l'intensità della sofferenza che l'attaccamento ha potuto creare nella nostra vita, ok? E che si sta creando, no? Che creerà nel futuro. Pensate bene che anche le forti esperienze di sofferenza che abbiamo sperimentato dovuto all'attaccamento, non c'è nessuna ragione che giustifica il loro non prodursi di nuovo in questa vita. Non c'è niente che ci mette al riparo di questa grande sofferenza dovuta all'attaccamento, separazione per esempio. Dobbiamo capire che l'attaccamento o un'afflizione in generale non soltanto quindi ci crea della sofferenza, ma mente. Un'afflizione è una distorsione della realtà. Ok? Una distorsione della realtà. Quindi l'attaccamento ci crea sofferenza perché quando si manifesta la nostra mente è agitata. La nostra mente non trova la pace finché non ha il contatto con ciò che è desiderato. Ok? E dopo soffre per mantenere il contatto e comunque soffrirà quando ci sarà la separazione la separazione di questo contatto, che è la fine di questo contatto. Quindi soffre già in questo modo, quindi a breve termine soffre. Però dobbiamo anche vedere come ci fa soffrire a lungo termine. A lungo termine, ogni volta che noi seguiamo l'attaccamento, la mente è non virtuosa. Quindi si creano delle azioni in generale non virtuose che matureranno con esperienza di sofferenza. Non soltanto, ma più seguiamo le afflizioni, più produciamo una predisposizione per l'afflizione. Non è che possiamo diminuire l'attaccamento. Moltiplicando gli oggetti di attaccamento. Dice no, ho un potenziale di attaccamento, quindi cerco di svuotare questo attaccamento. No, in quel modo incrementa l'attaccamento. E ci mente perché è una distorsione della realtà, come tutte le afflizioni. Allora l'attaccamento è una distorsione della realtà nel lato positivo. Invece l'avversione, la distorsione della realtà nel lato negativo, quindi ci mente. In generale un'afflizione sorge in quel modo. Primo dobbiamo avere come base l'ignoranza che si afferra alla vera esistenza, quindi è una reificazione dell'esistenza. Quindi qualcosa appare come avendo un'esistenza autonoma, del suo proprio lato, obiettiva, esiste da per sé, senza dipendere dalla mia mente. Per esempio la bottiglia qui, o il microfono, che hanno un'esistenza di là, del loro proprio lato. Qui c'è un microfono, e il microfono per esistere, o questa persona, quest'altra, il tavolo, non dipende dalla mia attività mentale. Assolutamente no. Questa è l'apparenza che abbiamo, e il credere a questa apparenza è l'ignoranza, questo fratellimento della realtà. Quindi, avendo questa apparenza, anche dovuto al karma, dopo questo è molto personale, dovuto al karma, certi oggetti ci appaiono a individuali come piacevole e altri come spiacevole. Ma questi attributi di piacevolezza o di spiacevolezza apparano esistere dell'atto dell'oggetto, visto che abbiamo questa reificazione. No? Quindi questo è il lavoro dell'ignoranza. Dopo di questo abbiamo quello che viene chiamato l'attenzione mentale inappropriata. L'attenzione mentale inappropriata è una mente concettuale che si impegna negli attributi piacevole o spiacevole dell'oggetto e ne esagera, cioè è neanche necessariamente si impegna in questi attributi. Ma questo è così, questo è cos'ha, questo è così, questo è cos'ha, questo è così, questo è cos'ha, e alla fine sorge l'attaccamento. Quindi l'attenzione mentale inappropriata ha come funzione di far sorgere l'afflizione, dovuta agli impegnarsi negli attributi piacevole, allora c'è l'attaccamento che sorge, attributi spiacevole, c'è l'avversione che sorge. E l'avversione è l'attaccamento è esagera gli attributi. Esagera gli attributi, qualcosa che ritiene delle caratteristiche piacevole, per l'attaccamento che lo guardo è smisurato la cosa, smisurata. Quindi più l'attaccamento è potente nel nostro continuum, più ci allontaniamo dalla realtà, okay? Più la distorsione è enorme. Quindi delle qualità che esistono vengono esagerate, fuori proporzione, e possiamo andare al livello dove anche dei difetti vengono percepiti come qualità. Anche questo esiste, ma questo è un attaccamento ben prodotto, no? E allora il problema è che la mente allora a quel punto l'individuo è completamente intossicato dall'attaccamento, okay? Quindi quando percepisce l'oggetto non percepisce più un oggetto con caratteristiche convenzionali, ma entra in contatto con la distorsione che ha prodotto l'attaccamento. È questo che appare alla mente di questi, dell'individuo, della persona, no? Entra in contatto con le sovraimposizioni, l'esagerazione, la distorsione che l'attaccamento ha creato. E più la persona continua a pensare, ok, agli attributi piacevoli dell'oggetto, più l'attaccamento si rinforza e più la distorsione è enorme. E quindi alla fine è questa proiezione che appare alla mente. Allora, se siamo fortunati, eventualmente possiamo ottenere l'oggetto dell'attaccamento. Okay? Cioè l'attaccamento si ottiene. Okay? Se non siamo fortunati, si soffre. In silenzio si soffre. Allora, però nel caso che siamo fortunati, vediamo che nel caso siamo fortunati e quindi si ottiene l'oggetto. Dopo un po' di tempo, automaticamente ci troviamo confrontati alla realtà obiettiva del fenomeno della persona e vediamo che c'è una distorsione, no? Una discrepanza tra la proiezione che ha creato l'attaccamento e i difetti, è l'oggetto stesso. Vediamo che effettivamente non è così, non è cos'ha, questo difetto, è così, fa così, mi tratta così, mi parla così. E piano piano l'attaccamento diminuisce, piano piano diminuisce. E certe volte può anche far sorgere l'avversione, E dopo è la stessa cosa, ma nell'altro lato. Quindi c'è l'attività mentale inappropriata che osserva gli attributi spiacevoli dell'oggetto, poi abbiamo questa distorsione, abbiamo la versione che sorge, distorsione del fenomeno, le qualità, gli attributi spiacevoli vengono esagerati e anche le qualità vengono percepiti come difetti questa volta. Le qualità vengono percepiti come difetti. E l'unica cosa che vogliamo è strangolare questa persona. E questa è sofferenza nel continuum mentale, perché ogni volta che vediamo questa persona, disturbo, ma non abbiamo neanche bisogno di vederla, basta pensare a questa persona, anche quando siamo tranquilli, solo pensare a questa persona e la nostra mente soffre, semplicemente dovuto all'attività mentale, dovuta all'afflizione. Quindi quello che facciamo in generale è che c'è la separazione, più che si fa più o meno bene in generale, okay? E poi la mente rimbalza su un altro supporto, c'è un'altra persona che percepite come piacevole, l'attività mentale inappropriata, l'attaccamento, distorsione della realtà, e si continua e si va avanti da tempi senza inizio. Però è impossibile, capito? Cioè, dobbiamo capire che è un metodo completamente inopportuno irrealista anche per ottenere la felicità, perché parte da una distorsione della realtà, parte da una distorsione della realtà. Poi se pensiamo che qualcuno che ha dell'ignoranza, che ha dell'attaccamento, dell'avversione, dell'orgoglio, del risentimento, cioè, ci può far felice, siamo messi male. È impossibile. È impossibile. Quindi questo è il modo in quale l'attaccamento a più lungo termine ci rende infelice, ci crea sofferenza. Perché durante tutto questo processo di attaccamento, di avversione, la mente è completamente agitata e tutte le azioni che facciamo sono non virtuose. Andiamo a fare un sacco di azioni non virtuose per ottenere l'oggetto del nostro attaccamento. Andiamo a mentire, andiamo a dividere le persone, andiamo a criticare uno per avere i vantaggi dell'altro, poi andiamo anche con la moglie e il marito degli altri, o il fidanzato, eccetera. Solo noi esiste e solo la nostra soddisfazione esiste. Però visto che tutto questo è motivato dall'avversione, dall'attaccamento, automaticamente le azioni sono non virtuose e i risultati sono risultati di sofferenza. Stessa cosa quando c'è l'avversione. Andiamo a criticare, andiamo a separare, andiamo a... Comunque dovete riflettere su questa cosa. È molto facile perché basta ascoltare quello che accade all'interno. Cioè, abbiamo questa sinfonia istante dopo istante. Non c'è modo, non è che dobbiamo cercare di capire le cose molto complicate nei testi. È la vita di tutti i giorni. Sì. Di provocare l'attaccamento per controllarlo? No. Oppure per vederlo osservando dall'esterno, per vederlo così. L'attaccamento non si è... Sì, allora rifammi la prima domanda che mi hai fatto. Cioè, rifammi la prima domanda, ma molto precisa. Un sistema per combattere, comunque per in qualche modo ostacolare l'attaccamento, provocando. Di solito quando per esempio faccio un discorso e trovi le risposte dentro, quando si sviluppa, per esempio, quando si medita, no, sul respiro, si fa queste pratiche di vipassana o di introspezione, eccetera, dove c'è una meditazione anche, c'è una meditazione che essere all'ascolto, di osservare la mente, no? Semplicemente tranquilli, si osserva l'attività mentale, ok? E si notano l'entità dei pensieri, ok? Questi pensieri di attaccamento. Pensiero di avversione. Di solito è il pensiero di attaccamento. Pensiero di attaccamento. Pensiero di attaccamento. Pensiero di attaccamento. Avversione. E quindi si guarda che il fenomeno, cioè quel pensiero, no, sorge della mente e si non va a proseguito, nel senso che se non andiamo a correre dietro, si dissolve nella mente. Cioè passa. È come una nuvola che passa. Allora, il cielo è la mente, no? Quindi c'è il vuoto del cielo, il vuoto della mente, e passano in nuvole che sono le concettualizzazioni. Okay? Allora, se non andiamo a correre dietro queste concettualizzazioni, si dissolvono esattamente dove sono stati prodotti. Okay? Questo si osserva in meditazione, questo è un tipo di meditazione che è il Mahamudra, dove si osserva la natura della mente. Quindi questa attività... Questo è molto interessante da fare, molto interessante. E dopo, più avanti, questi sono i primi passi, non è questo il Mahamudra, sono i primi passi, il Mahamudra è molto complicato, e dopo c'è identificare anche la natura convenzionale della mente, questo chiaro conoscitore, e dopo si medita sulla vacuità di questo. Questo è il Mahamudra, quando si medita sulla vacuità della natura convenzionale della mente. Perché arriva Sì. Arrivando a questo Allora, a livello dell'esperimentazione, nella vita di tutti i giorni, noi dobbiamo essere, invece di essere sempre fuori a guardare quello che fanno gli altri, eccetera, cosa abbiamo a disposizione, cerchiamo di essere consapevoli della propria attività mentale. E per bloccare l'attaccamento puoi fare due cose. O puoi evitare, perché lo vedremo più avanti, l'attaccamento sorge principalmente da tre condizioni, ne possiamo avere anche sei, dipende. Abbiamo l'afflizione, cioè o il potenziale dell'afflizione, l'oggetto di osservazione e l'attività mentale inappropriata. Quindi, allora, la possibilità è di evitare, per esempio, se tu hai l'avversione per delle persone, per una persona in particolare, o dell'attaccamento per una persona in particolare, che non riesci a controllare, è meglio evitare questa persona, okay? Nei due casi, per un po' di tempo, finché elabori un antidoto, ok? E poi, bene, altrimenti puoi bloccare prima che l'attaccamento sorge, quindi blocchi, qual è che cos'è che produce l'attaccamento, che cos'è che produce l'afflizione, l'abbiamo menzionato. L'attività mentale inappropriata. Se uno blocca l'attività mentale inappropriata, l'afflizione non sorge. Perché è l'attività mentale inappropriata che si impegna negli attributi del fenomeno piacevole o spiacevole e che ha come risultato il sorgere dell'afflizione. Questo è molto difficile. Molto difficile. Ci vuole una grossa introspezione. È qualcosa che comunque è come andare in palestra, no? Non è che andiamo in palestra, prendiamo i pesi di 50 kg e siamo lì per due ore a fare i pesi di 50 kg, è impossibile. È la stessa cosa con la mente, no? È con la familiarità. Tutto questo viene fatto con la diligenza e familiarità, e piano piano l'introspezione cresce, la nostra capacità cresce, la comprensione cresce, ok? Shantideva dice che tutto diventa facile con la familiarità. Quindi è qualcosa che dobbiamo fare piano piano. Quindi cerchiamo di riportare la mente all'interno, di diventare consapevole dell'attività mentale. E quando vedete che l'attività mentale è negativa, si cerca di pensare in un altro modo. Quando vediamo che la mente si impegna nel criticare, nel vedere i difetti, nel generare dell'avversione, subito si taglia alla continuità di questo pensiero e si mette la mente in un'altra parte. Stessa cosa per l'attaccamento, no? Però non c'è niente che viene fatto se non c'è questo lavoro di introspezione, se non incominciamo a mettere lo sguardo all'interno. E per questo non avete bisogno di cambiare il vostro comportamento, a mettere dei vestiti strani, a mettervi delle posizioni strane, eccetera. Questo si fa, non c'è bisogno, nessuno nota questa cosa. Questo è nel sutra, quindi nel sutra si lavora con l'afflizione col coltello in mano, cioè il corpo a corpo, con il coltello in mano, okay? Poi ci sono nei tantra ci sono altri metodi, però nel tantra, perché le persone dicono ma il tantra è l'afflizione, allora, sì, è giusto, però bisogna prima avere l'afflizione sotto controllo, allora si può, altrimenti no. E comunque alla fine si ricerca sempre la distruzione completa della fissione. Quindi noi dobbiamo incominciare comunque qui. Ok, abbiamo fatto l'attaccamento, abbiamo visto un po' l'avversione, ok? L'avversione, qui abbiamo la collera, no? O l'odio, però già sono stati molto avanzati questi. Però all'inizio è l'avversione, c'è qualcosa che ci dispiace, no? E ci fermiamo in questo dispiacere, questo diventa, quando cresce, dell'odio e ovviamente della collera. Però tutto questo è la stessa il stesso continuum, no? Avversione. Quindi l'avversione, la collera, è l'intenzione di nuocere agli esseri senzienti, di distruggere le sofferenze del proprio continuum o i fenomeni che sono fonte di sofferenza. Quindi l'avversione osserva sia la sofferenza che la fonte della sofferenza e vuole eliminarla, distruggere, nuocere. Ha delle cose molto semplici, come qui viene menzionata la spina. Nel senso che possiamo generare dell'avversione anche per la macchina la mattina quando parte, per il computer quando non funziona. Cioè, le fonti di avversione sono molteplici, come le fonti di attaccamento. Essa ha la funzione di provocare la separazione della propria felicità, perché quando sorge l'avversione, a quel momento la sofferenza è manifesta. L'avversione è concomitante con una sensazione di sofferenza spiacevole. La mente soffre quando c'è l'avversione. Però è molto più facile di separarsi dell'avversione che dell'attaccamento. Infatti, perché l'attaccamento, l'avversione non colla al suo oggetto come l'attaccamento. L'attaccamento è proprio, lo dicono, no? È come un macchio d'olio. Invece l'avversione è più come della terra secca sui vestiti, no? Un colpo di broccia, come si dice, no? Di spazzola è finito. Ah, quindi da questo punto di vista c'è speranza. E se guardiamo anche una giornata, no? È possibile passare una giornata senza avversione? È possibile, anche due, eccetera. Però senza attaccamento è molto difficile. Per noi che siamo non addestrati è impossibile. Perché se c'è qualcosa di piacevole, c'è attaccamento. Si manifesta. Quando mangiamo, già, è un festival. A causa, quindi, essa ha la funzione di provocare la separazione della propria felicità, è il fondamento del comportamento dannoso. Quindi l'avversione crea danno, no? Con l'attaccamento è possibile anche fare delle azioni virtuose con l'attaccamento. È possibile accumulare delle cause di felicità con l'attaccamento, per esempio praticando la generosità, prendersi cura di qualcuno per il quale abbiamo attaccamento, eccetera. Quindi invece l'avversione è necessariamente fonte di danno, okay? Necessariamente. No, è impossibile di fare delle azioni virtuose motivati dall'avversione, non esiste. Invece con l'attaccamento è possibile. Ad esempio, cioè, prendersi cura dei propri familiari, dei figli, eccetera, no? C'è sempre attaccamento dietro. Allora, l'avversione è anche molto di danno, perché recide, cioè, brucia le virtù accumulate. Quando la collera si manifesta, va anche a indebolire le radici di virtù accumulate, le può anche distruggere. A causa della collera ci si separa dalla felicità nella vita attuale e si provoca la sofferenza incommensurabile in quelle future. Quindi allora abbiamo visto il karma, no? Abbiamo visto che il karma è più o meno pesante in dipendenza della motivazione, ma anche del campo, no? Quindi la l'avversione viene manifestata all'incontro di un campo pesante, allora molto molto dura la cosa. Si dice, no, che uno schiocco di dita si può bruciare eoni di accumulazione di virtù, eoni in uno schiocco di dita. Ecco perché siamo sempre lì, abbiamo la comprensione difficile, la meditazione difficile, perché anche se accumuliamo, cioè 2 ore dopo andiamo, cioè certe volte anche l'istante dopo andiamo a distruggere quello che abbiamo accumulato. Quindi è molto importante proteggere la mente dell'avversione, è primordiale, è la cosa la peggiore che può accadere a un praticante, è l'avversione. L'orgoglio dipende, allora qui sì, abbiamo l'odio, l'abbiamo visto, l'orgoglio. L'orgoglio è interessante perché l'orgoglio dipende dal concepire l'insieme transitorio, allora l'insieme del transitorio sono i 5 aggregati appropriati. I 5 gradi di appropriazione sono, cioè, la forma, sensazione, discriminazione, fattore di cognizione e coscienza, sono i 5 conseguenti fisico-psichici della persona, questi sono i 5 aggregati di appropriazione o la collezione del transitorio, okay? Come un io vero, proprio, quindi reale, che ha l'aspetto e la mente, quindi osserva questo io e osserva gli attributi dell'io, osserva i possedimenti di questo io, ok? E c'è un rigonfiarsi della mente, no? La mente c'è, si gonfia, nell'osservare proprietà, qualità, ricchezza, giovinezza e così via. Esso funge di base alla mancanza di rispetto per provocare sofferenza, ok? Quindi l'orgoglio è molto interessante, perché certe volte andiamo a osservare delle cose completamente assurde, no? Ai propri vestiti, colori di lunghezza dei capelli, cioè altezza, eccetera. E la persona genera dell'orgoglio per quel tipo di fenomeni. Interessante. Okay. Abbiamo, sono sette tipi di orgoglio in generale che possiamo avere. Abbiamo l'orgoglio semplice, che quindi è un gonfiarsi della mente di chi pensa essere superiore a persone di condizione inferiore. Okay. Poi abbiamo l'orgoglio eccessivo, è un gonfiarsi della mente di chi pensa essere superiore a persona di pari condizione. Orgoglio oltre l'orgoglio, un gonfiarsi della mente di chi pensa essere superiore a tutti, perfino alle persone ritenute somme. L'orgoglio del pensare io, ok? Questo è semplicemente il gonfiarsi della mente di chi osserva gli aggregati di appropriazione fisica e mentale e pensa io, ok? Quindi il pensiero io è una forma di orgoglio, ok? In questo contesto. L'orgoglio, il quinto, l'orgoglio della presunzione, è un gonfiarsi della mente di chi crede di aver ottenuto ciò che non ha ottenuto, come della chiarveggenza, concentrazione, eccetera. Orgoglio di chi di una lieve inferiorità, ok? Questo è un gonfiarsi della mente di chi pensa di essere solo leggermente inferiore agli altri che in realtà sono assai superiori. E l'orgoglio errato è un gonfiarsi della mente di chi pensa di aver ottenuto qualità propizie, mentre in realtà ha deviato del sentiero, come nel caso di chi si vanta di elevati ottenimenti quando in realtà è stata irretito del suo spirito, di uno spirito, cioè questo è un caso particolare, ok? Quindi, poiché dall'orgoglio deriva la mancanza di rispetto per le qualità elevate e per coloro che le possiedono, esso impedisce di ottenere nuovamente le dottrine spirituali di realizzazione. Quindi l'orgoglio blocca il progresso, perché di solito quando l'orgoglio si manifesta non andiamo a chiedere, io so, quindi non c'è problema. O anche se sappiamo che non conosciamo, l'orgoglio ci blocca di andare a chiedere. Quindi blocca i progressi e la comprensione, la conoscenza, l'orgoglio. Quindi è un grosso problema. Io mi fermerei qui. Sì. Una cosa su voi. Ad un certo punto, adesso non mi ricordo dove l'ho detto, nella pratica si sviluppa una cosa che si chiama orgoglio divino. Questa è un'altra cosa. Storia. Perché si chiama orgoglio? Si chiama orgoglio, ma non è un'affezione in questo contesto. Okay? Questo è nel contesto del tantra. Quindi non c'entra niente, va molto al di là del nostro discorso di oggi, ok? E questo nel contesto di identificarsi con un risultato, è un'immaginazione, è identificarsi con il risultato, ok? Ma non è una mente afflitta, è una mente afflitta. Ok, sì, c'è un paio di domande, eventualmente si fa, altrimenti... Ma che per? Allora, per l'avversione bisogna meditare sull'amore e la compassione. Quindi meditare sui quattro incommensurabili, per esempio. Allora si può fare varie cose. Per esempio se avete delle difficoltà con una persona, prendete questa persona in particolare, okay? Quindi dovete riflettere. Perché di solito abbiamo avversione perché guardiamo a questa persona, dobbiamo cambiare il modo di vedere le persone. Se impariamo a guardare le persone non con le nostre proiezioni, ma come le realtà di queste persone, che sono nel samsara, che hanno la sofferenza della nascita, dell'invecchiamento, della morte, che soffrono dei tre tipi di sofferenza, tutte queste cose, no? Allora l'atteggiamento è diverso, diventa molto più facile di passare alla compassione e di vedere che il comportamento di questa persona è semplicemente il comportamento di una persona che ricerca di essere felice, ma che si prende male, che prende una strada sbagliata. Quindi alla fine questa persona sperimenterà la sofferenza invece di sperimentare felicità. Okay? Però il meditare sui quattro è commensurabile. Prendete per esempio, di solito si può fare in quel modo, no? Vi sedete, quindi meditate un po' sul respiro per calmare la mente. E poi visualizzate che davanti a voi ci sono delle persone molto care, dove spontaneamente sorge la mente di affetto, no? La mente di affetto. Fate nascere questa mente di affetto e vedete al vostro cuore, no? Che c'è questa mente di affetto e ha questa sensazione, e visualizzate questa sensazione come una pallina gialla, ok? Pallina gialla. Identificatevi con questo. Io sono questa sensazione è mia natura, no? E visualizzate che questa pallina di colore gialla, che è la vostra mente di amore, ok? Si colma tutto il vostro corpo, riempie tutto il vostro corpo, ok? E piano piano è come una sfera che si espande, no? E incomincia a toccare. Allora davanti a voi avete le persone, quindi che sono molto care, e familiari, eccetera. Dopo ci mettete gli amici, okay? Dopo mettete le persone con le quali avete delle difficoltà, e dopo mettete tutti gli altri esseri senzienti. Okay? Quindi avete questa pallina di luce che cresce, va a toccare prima il vostro amore, quindi va a toccare le persone che sono care a voi, e pensate che dovute essere toccati dal vostro amore, queste persone sperimentano la felicità, i loro problemi sono finiti, sperimentano una mente di estasi, vedete queste cose, poi andate verso i vostri amici, okay? E poi andate a toccare le persone con le quali avete difficoltà, pensate che queste persone, anche loro, hanno il diritto a essere felici, anche loro sperimentano difficoltà, sofferenza giorni dopo giorni, che questi esseri si manifestano in quel modo adesso, questa è un'apparenza al karma, sono i nemici. Ma questa è un'apparenza al karma, questa non è la loro realtà. Le vite passate erano a persone molto care, alla propria madre, eccetera. E poi pensate che quindi quando il vostro amore le tocca, sono liberi dei loro pensieri di avversione, di pensieri di danno, sperimentano la felicità, i loro problemi sono finiti, espandete anche tutti gli esseri senzienti e dimorate in questo stato. Questo stato, è il più possibile. Poi quando si perde la concentrazione si incomincia. Op, quelli primi, quelli di dopo, op, e quando si perde, op, si incomincia. Okay? Molto velocemente, questa meditazione è molto piacevole. Cioè mette la mente in uno stato di estasi. E così potete immaginare, no? Se una persona è in grado di vivere in questo sentimento di amore tutta la giornata, beh, è un'altra realtà, è un'altra esperienza. Perché quando, a forse all'inizio è un po' arido questa cosa, no? Però piano piano vedrete che la cosa sorge molto facilmente. E dopo, con la familiarità, non avrete bisogno di fare tutto questo processo. Potete direttamente andare sulle persone specifiche o, cioè, generare la meditazione globale subito. Okay? E per l'attaccamento bisogna riflettere, visto che l'attaccamento è una distorsione della realtà, bisogna meditare sulla realtà dell'oggetto, ok? Qui non si parla della realtà ultima, ok? Perché ancora non abbiamo trattato insieme, ma si parla della realtà convenzionale, di caratteristiche convenzionali, ok? Quindi allora quando per le persone abbiamo attaccamento per il corpo delle persone, ok? Non è che abbiamo attaccamento per la mente delle persone, non abbiamo questo tipo di problema, abbiamo attaccamento per il corpo, quindi bisogna osservare che cos'è il corpo, ok? Quindi si osserva il corpo, si osserva che cos'è la pelle, con i peli, con i capelli grassi, non puliti, con le unghie, cosa c'è sotto le unghie, cosa c'è tra le dita dei piedi dopo una giornata, ok? Cioè andate a mettere, sì, ma è così, andate a mettere il naso nei posti dove non dovete mettere, vedete che l'attaccamento subito, finito. Questa è la mente di non attaccamento, è dimorato in questo stato. Questo ha la capacità di diminuire l'attaccamento. Perché comunque il corpo abbiamo una distorsione rispetto al corpo, però se andiamo veramente a guardare che cos'è il corpo, non è qualcosa di così puro, pulito. Okay? Si passate 3 giorni, cioè andiamo a, spingiamo fino a 3 giorni senza lavarsi, è già sconfortevole. Okay? Quindi il corpo è una borsa, di, è una borsa, okay? Con 9 orifici dal quale scorrono delle sostanze spiacevole. Okay? Abbiamo le varie sostanze, no? Abbiamo il sebum nelle orecchie, no? Cioè il muco al naso, la saliva, il sudore, urine, fece, questo è il corpo. Okay? Guardate quello che c'è dentro, no? Cioè è piacevole all'inizio perché c'è la pelle che nasconde il tutto, no? Però la pelle, anche questo, va bene fino a una certa età, no? Dopo una certa età la pelle, neanche la pelle riesce a nascondere la realtà del corpo. No? Si apre il corpo a... questo è il corpo. Quindi questa è la mia... Non so se siete pronti per quel tipo di discorso, okay? Perché questi sono veramente discorsi per le persone che hanno voglia di separarsi dall'attaccamento e che hanno realizzato che l'attaccamento è una fonte di sofferenza. Allora ci sono quel tipo di insegnamenti, no? Si aprite il Bodhisattva Charyavatara di Shantideva, il capitolo sulla concentrazione avrete questa cosa in dettaglio, okay? Altrimenti sono, si tratta di 36 sostanze, si tratta di 36 sostanze impure, okay? Quindi la meditazione è passare 36 sostanze con la loro posizione, eccetera, eccetera. Okay? Quindi lo scopo è non avere avversione per gli altri, ma semplicemente la generazione del non attaccamento. È una mente non attaccata, libera, tranquilla. Okay? Questo è perché adesso la mente fa okay? Quindi per bloccare questa cosa dobbiamo semplicemente far vedere alla mente verso che cosa si attacca e vedere se veramente ne vale la pena. Semplicemente osservare le cose come sono. Non andiamo a sovrimporre, la meditazione non è mai sovrimporre qualcosa che non c'è. Questo è il lavoro dell'ignoranza. È semplicemente andare a guardare le cose senza decorazione, senza artificio, no? Si va a guardare le cose come sono. Quindi questi sono i cerotti. Quelli che dicevo prima, cerotti, perché hanno la capacità solo di rendere non manifesta la sezione. Per eliminarla, vacuità. Quindi realizzare che l'oggetto è privo di caratteristiche intrinseche, questo fa in modo che l'attaccamento non ha più posto per atterrare. Però per l'orgoglio di solito bisogna, allora, si può riflettere sul proprio stato afflitto, vedere quanto è difficile per noi di fare qualsiasi cosa di virtuoso, vedere sui propri difetti, i propri errori che facciamo, altrimenti dice il meditare sulle divisioni dei costituenti della Dharma Kosha, perché molto velocemente comprendete che comprendiamo che non sappiamo niente. Cosa abbiamo confuso rispetto a tutto? Siamo confusi rispetto a tutto. Quindi questo è così. Nell'Amrincenmo viene insegnato di meditare sulle divisioni dei costituenti della Dharma Kosha. È un casino. Mi sì. Altrimenti cioè, basta anche vedere, no, che cioè, l'orgoglio è una distorsione, sono tutte distorsioni. Cerchiamo di vedere se veramente l'orgoglio è giustificato. Siamo così bravi, siamo così belli, veramente? Siamo esseri prodotti dalle afflizioni del karma, siamo colmi di difetti fisici e mentali. L'orgoglio, cioè. Quindi anche il pericolo con le afflizioni, no? Visto che le afflizioni sono distorsioni della realtà, più le sviluppiamo, più ci allontaniamo della comprensione della vacuità, okay? Più ci allontaniamo automaticamente, perché sono distorsioni, quindi ci vela la mente, okay? Della realizzare la realtà. E tutto questo, adesso veramente entriamo nella fase di insegnamenti che sono difficili da mettere in pratica, difficile. Però, come dicevo, c'è nient'altro da fare, quindi piano piano facciamo quello che possiamo, no? È come fare i passi, no? Si fa anche quando il percorso è molto lungo, un passo dopo l'altro, una certa distanza viene percorso, no? E poi comunque quello che è l'importante è di estrarre utilizzare al meglio le condizioni che abbiamo, okay? Le condizioni, queste opportunità che abbiamo, che sono molto difficili da mettere insieme, no? E poi okay, cercando anche di produrre, di fare in modo che nella vita futura abbiamo sempre queste condizioni, e a un certo punto il risultato dovrebbe essere attualizzato, no? Nel tantra dicono, nel tantra di Guhyasena Mahāsāya ha detto, no? Che anche una persona che mantiene i suoi impegni, i suoi voti in modo puro, che è già molto difficile, anche se non fa troppi sforzi nella meditazione, eccetera, in 16 esistenze ottiene lo stato di Buddha. 16. Quindi io firmo, 16 va anche bene, no? Per tempi senza inizio ci sto, quindi anche 16 vanno bene. Però comunque cioè, è già molto difficile di mantenere il voto del Bodhisattva, del Tantra, insomma è difficile. Ah, quello? Sì, sì. Sì, sì, qui sì, cioè, non c'è, allora, si può praticare il Sutra senza il Tantra, ma non si può praticare il Tantra senza il Sutra, è impossibile. Quindi la base per il Tantra è questa, è il Lamrim. Il Lamrim ha come funzione, perché solo con l'Amrim nessuno tiene lo stato di Buddha, è impossibile, okay? Però è questa la preparazione per entrare nel veicolo per diventare un recipiente adatto all'insegnamento del Tantra, okay? Quindi dobbiamo addestrarsi nei tre principali aspetti, i tre livelli di motivazione, cercare di almeno attualizzare un'esperienza qua, non dico una realizzazione, ma almeno dobbiamo saper meditare su tutti i punti senza aver bisogno di aprire il testo, okay? E dobbiamo essere in grado di generare un'esperienza. Quando meditiamo siamo in grado di generare l'oggetto di meditazione e di generare un'esperienza di questo oggetto di meditazione, okay? Quindi questo è un po' di familiarità, ma si fa questa cosa, okay? E allora incominciamo appena, okay, a essere un veicolo adatto a ricevere gli insegnamenti su quest'altro altro ciclo, no? Però adesso cioè non è coerente, non c'è nessun punto al fare che la pratica del tantra diventa la pratica principale finché non abbiamo generato tre principali aspetti del sentiero. Non ha senso. Questo non significa che quando affidandosi un maestro, quando lui ci sente adeguati, non significa che non dobbiamo cercare di mettere anche le impronte del tantra, perché se aspettiamo di generare i tre aspetti principali del sentiero prima di mettere le impronte del tantra, forse aspettiamo un po' di eoni, per certi di noi, aspettiamo un po', quindi come? Bisogna meditare sull'Amrim il più possibile, cercare di avere questa panoramica, di integrare l'Amrim, nel senso che almeno essere in grado di meditare su tutti i punti senza aver bisogno del testo, okay? E poi affidandosi a un maestro, quando lui ritiene che possiamo andarci, ci andiamo. Però il tantra, allora, già il sutra senza affidarsi al maestro la vedo difficile, ok? Nel senso che la linfa del sentiero è la relazione con il maestro autentico, il maestro spirituale, molto importante. Ecco perché è il primo insegnamento che abbiamo fatto insieme, okay? Però diciamo il sutra non implica necessariamente un affidamento come viene sottolineato nel tantra. Il tantra senza l'affidamento alla vita spirituale è impossibile. Bene, allora cerchiamo di dedicare tutte queste virtù che abbiamo accumulato affinché molto velocemente atteniamo lo stato di Buddha, okay? Generiamo la mente di Bodhicitta, generiamo la visione corretta della realtà, generiamo anche la mente di emersione definitiva, okay? Dedichiamo anche i maestri che insegnano, i maestri autentici che insegnano, quindi i veri sentieri verso la vera cessazione, abbiano una lunga vita, che i loro desideri si esauriscono, che dedichiamo anche affinché l'insegnamento del Buddha dimora per lungo tempo in questa terra senza degenerare. Grazie.